24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Anna Marino, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano un nuovo appello per salvare la moneta unica. Il presidente americano Barack Obama e il primo ministro britannico David Cameron giudicano necessario un piano immediato per la crisi dell'Eurozona. Lo ha reso noto Downing Street dopo un colloquio telefonico tra i due leader. Ancora notizie per la pagina economica con le parole di Draghi a Francoforte, parole anche rivolte oltreoceano. Ci racconta tutto da Francoforte Alessandro Merli del Sole 24 Ore. I tassi non si toccano, almeno per il momento, anche se Draghi ha ammesso che l'economia sta peggiorando rispetto a quello che si poteva pensare anche solo 3 mesi fa. Io credo che la BCE stia aspettando le elezioni greche, ma soprattutto il Consiglio europeo di fine mese, per vedere se i politici, i governi finalmente si muovono con le famose riforme di cui l'Europa ha bisogno. Dopo eventualmente si parlerà di un taglio dei tassi a luglio. Questa è la porta che è stata aperta da Draghi. E poi Draghi ha anche detto: la colpa della crisi non è tutta nostra, insomma, dietro le pressioni americane e di altri perché l'Europa faccia qualcosa, ha ricordato che anche loro hanno le loro responsabilità. E ora vediamo com'è andata la giornata in borsa ieri per i mercati europei. Milano ha chiuso in rialzo del 3,5%, una giornata convulsa e volatile, realizzando la migliore performance in Europa in attesa del rapporto sull'economia della Fed, la banca centrale americana. In Europa la BCE ha lasciato i tassi invariati all'1%, il presidente Mario Draghi ha annunciato l'estensione a inizio 2013 delle misure di liquidità a favore delle banche. Gli acquisti hanno quindi premiato il comparto bancario, che ha guadagnato il 4% circa. La migliore sul FTSE è stata la popolare dell'Emilia Romagna, più 9,7%, in recupero dopo il calo della vigilia. Rimbalza anche per Telecom, più 6,6%, dopo che la Cassa Depositi e Prestiti ha dato la disponibilità a partecipare al finanziamento degli investimenti per la rete a banda larga di nuova generazione. Bene anche la controllata T-Media, più 4,3%. Nei giorni scorsi è stata costituita la società in cui coinfluirà la Sette per un'eventuale cessione. In evidenza i titoli del risparmio gestito: Azimut più 8%, Mediolanum più 6% e Banca Generali più 10,7%, quest'ultima premiata dai dati positivi sulla raccolta del mese di maggio. Livia Zancaner da Radio Corpo, Radio 24, il Sole 24 Ore. La Francia fa dietro front, come annunciato in campagna elettorale dal presidente Hollande, varata la nuova riforma delle pensioni che fa scendere a 60 anni la possibilità di andare in pensione. Il corrispondente del Sole 24 Ore a Parigi, Marco Moussanet. Ma in realtà più che di una nuova riforma, si tratta di un ritocco di un provvedimento esistente, nel senso che dal punto di vista politico, diciamo del marketing politico, il messaggio che passa è il ritorno della pensione a 60 anni, dopo che Sarkozy alla fine del 2010 con la riforma delle pensioni aveva portato l'età legale minima per poter andare in pensione da 60 a 62 anni. In realtà non si tratta esattamente di questo, nel senso che l'età legale minima per andare in pensione rimane quella della riforma Sarkozy a 62 anni. Con la decisione di oggi viene ampliata la possibilità per chi ha cominciato a lavorare molto presto di poter andare in pensione prima dei 62 anni. In realtà è un provvedimento che è una misura che esiste già dal 2003 e prevede la possibilità di andare in pensione, diciamo, anticipata per chi ha cominciato a lavorare prima dei 17 anni, e cioè in sostanza chi ha accumulato almeno 43 anni di versamenti contributivi. Quelli che da noi chiamano i lavoratori precoci. Esatto. Ora, con la decisione di oggi si amplia questa opportunità, nel senso che potranno andare in pensione prima dell'età legale minima quelli che hanno lavorato prima dei 19 anni, e cioè quelli che hanno maturato non più 43 anni di anzianità contributiva, bensì 41. In più c'è la possibilità di conteggiare dentro questi 41 anni anche alcuni trimestri per quanto riguarda le donne in permesso maternità o comunque che si sono dovute allontanare dal lavoro per alcuni periodi per potersi occupare dei figli, o chi si è trovato a vivere situazioni momentanee di disoccupazione. Ecco Marco, perché questa mossa di Hollande? Beh, questa mossa, beh, intanto era nel programma elettorale di Hollande da sempre. Questo è uno dei punti chiave, quello di una revisione parziale della riforma per ampliare appunto la platea di chi può andare in pensione anticipatamente. Che si faccia ora è assolutamente evidente: fra 4 giorni c'è il primo turno delle elezioni legislative, domenica 10 giugno, e il Partito Socialista, la sinistra in genere, ma soprattutto il Partito Socialista, ha assolutamente la necessità di vincere per evitare il rischio di trovarsi in una situazione di coabitazione, quindi con un presidente di sinistra e con un governo di destra. E quindi è chiaro che un provvedimento del genere molto popolare non può che aiutare la sinistra in vista delle legislative. Grazie Marco. Grazie a voi. Russia, anche il Senato approva la legge antiproteste e multe fino a 7.000 euro per i partecipanti. A nulla era valso lo sciopero all'italiana dei deputati della Duma, e cioè l'ostruzionismo duro e puro, e a nulla sono valsi il ricorso al Consiglio per i diritti umani presso il presidente russo e la discesa in campo dell'ex presidente sovietico Gorbaciov. Anche il Senato russo ha approvato con maggioranza bulgara la legge che inasprirà le sanzioni per le manifestazioni non autorizzate. 132 sì, un no e un astenuto, grazie all'ampia maggioranza del partito del presidente Russia Unita. Ormai manca solo la firma di Putin, che sembra scontata, e le ammende per i trasgressori arriveranno a più di 7.000 euro per i partecipanti e oltre 14.000 euro per gli organizzatori di manifestazioni non autorizzate. Per i trasgressori è previsto anche il servizio civile obbligatorio. Sanzioni arriveranno anche per le semplici azioni di massa non autorizzate, come le passeggiate di protesta organizzate nei mesi scorsi dall'opposizione, se comporteranno, dice la legge, una violazione dell'ordine pubblico. Ma qui si sa che i confini sono piuttosto labili da definire. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Secondo un rapporto di Save the Children, l'abbandono scolastico in Italia colpisce 114.000 adolescenti e porta al rallentamento dell'ascensore sociale. Raffaella Milano, al microfono di Francesco Riccardi. In Italia è davvero difficile per un bambino che cresce in una famiglia con genitori a basso titolo di istruzione poter pensare a un futuro diverso, magari arrivare alla laurea o un'altra possibilità professionale. Un figlio di un non diplomato ha 3 volte meno opportunità rispetto a un bambino che nasce in Germania, in Finlandia, eccetera, di laurearsi. È una grande perdita di talenti, di capacità, di opportunità. In Italia purtroppo il cosiddetto ascensore sociale funziona davvero molto poco. E allarme e biglietti falsi in vista degli europei di calcio che scattano venerdì in Polonia e Ucraina. I rischi arrivano soprattutto dal web, con decine di falsi siti che offrono tagliandi fasulli a prezzi astronomici. Dario Ricci ha intervistato Jérôme Sicard, responsabile per il Sud Europa di Mark Monitor, società di tutela dei marchi sul web che ha monitorato la rete in vista di Euro 2012. Il problema maggiore per il tifoso è: uno, spenderà moltissimi soldi perché ormai tutti i biglietti disponibili sono venduti a prezzi straordinari, molto più in là di quello che è proposto dalla UEFA per biglietti legittimi. Il tifoso che compra un biglietto su un sito non regolato dalla UEFA non sa bene dove lascia il suo numero di carta di credito, i suoi dettagli personali, e molti di quei siti poi utilizzano questa informazione per poi rubare altro denaro mediante altre frodi di identità. Quanti sono i siti pericolosi? Se parliamo unicamente di siti web gestiti da persone fuori della UEFA e che offrono biglietti, nello spazio di 2 settimane soltanto abbiamo identificato quasi 100 siti che offrono questi biglietti a prezzi molto molto alti. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Una buona giornata da Anna Marino. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.